140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi di spettacoli questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche con il mio account @MartaCagnola. Gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Palazzo Reale, Milano. Una delle più grandi voci del mondo in Italia per un grande progetto umanitario al femminile, Oxfam The Circle, Annie Lennox. In our celebrity culture, our consumeristic culture, and we follow all these very superficial values. Nella nostra cultura consumistica, cultura che si basa sulla celebrità, seguiamo valori superficiali e spesso ci dimentichiamo che siamo esseri umani che hanno bisogno di diritti e leggi che li proteggano. Noi pensiamo che la vita sia fatta in un certo modo, ma è così per noi, non per almeno un altro miliardo di donne che vivono su questo pianeta. And if we talk about feminism, it's very sad for me because this word, I think. Se parliamo di femminismo, è una cosa che mi rattrista perché penso che metà delle donne del mondo capiscano cos'è il femminismo e altre la rifiutino. Credo che ci sia un malinteso sul significato di questo termine, che per me è molto semplice: compartecipazione. Non va contro gli uomini dal mio punto di vista possono, devono essere femministi, dovremmo lavorare insieme. Non è una parola morta, ridondante, che risale agli anni 60 e 70, deve ritrovare energia e tornare non solo qui, ma anche e soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Back in the 60s and 70s. It needs to be re-energized and it needs to go not only here but also in developing countries, most especially. My background is so interesting because life is so synchronistic, you know, there was an opportunity. Il mio background è una cosa interessante, perché nella vita è tutta questione di tempistiche. A un certo punto, ad esempio, c'è stata l'opportunità di andare a una scuola migliore di quella locale a cui ero destinata, perché c'erano lezioni di musica. Insomma, se mi guardo indietro, passo dopo passo, capisco che ci sono state piccole opportunità una dietro l'altra. Actually, my grandparents were very active, anti-fascist, left-wing, and very, very. I miei nonni erano molto impegnati, erano di sinistra, antifascisti, tra la prima e la seconda guerra mondiale. Ma io non sono politicizzata. Sono una di quelle persone che non hanno fiducia nei politici e nella politica. Preferisco fare quello che faccio. To do what I'm doing, not being given the silver spoon. I think what it created was a situation. Non essere nata con la camicia mi ha costretto a lottare, ad affrontare sfide, ed è stata dura. Avevo davvero poco dal punto di vista economico e ho capito dopo, quando ho raggiunto un certo successo dal punto di vista economico, che anche quando vivevamo in un bilocale con un bagno solo per tutti, non era facile, ma eravamo felici. E questo mi ha insegnato ad apprezzare ogni cosa. That was shared by everybody, and I was very happy there. I mean, that was not so difficult, but and so it makes me appreciate all the things. A miracle of love was taken away, take away your pain. A miracle of love was taken away, comes your way again. Non dovrebbe essere una scienza complicata. Bisogna solo mettere insieme le persone. Non è questione che io sia la cantante che viene intervistata e tu la giornalista. Siamo donne. Qualsiasi cosa tu faccia, sei una donna. E questo dialogo è così tranquillo, silenzioso. Io so che posso essere l'elemento catalizzatore. Posso far succedere delle cose. Posso fare cose per me, ma anche per gli altri. Ed è quello che cerco di fare. Le persone si ritrovano per stupide occasioni sociali. Bevono vino bianco tiepido, parlano di sciocchezze, mentre potremmo fare cose molto migliori col nostro tempo. Il mio non è un giudizio morale, ma tutto questo è così banale. Abbiamo le risorse, le capacità. Basta focalizzarsi su un obiettivo e non perdere di vista il valore della parola femminismo, che dal mio punto di vista è davvero importante. Keeping the focus and not losing the value of the word feminist is terribly important, in my view. Piccolo Teatro, Milano. È l'erede della tradizione teatrale di Edoardo, Luca De Filippo. Al Piccolo Teatro di Milano porta la grande magia. Prima di tutto un testo di Edoardo del 48. È stata rappresentata pochissime volte, l'ultima volta con la regia di Giorgio Streller, uno spettacolo bellissimo che io ricordo, credo nell'84 è andato in scena, ricordo la prima proprio. E poi è una commedia bella, nel senso che parla... soprattutto ci parla oggi, parla di un mondo di illusioni, parla di un mondo diciamo che ci inventiamo noi stessi per non affrontare la realtà. C'è la storia di un imbonitore, di un mago che sembra un po' quasi un mago dei giorni nostri. C'è una sorta di preveggenza o è l'Italia che è rimasta sempre la stessa? No, le cose non cambiano quasi mai, è difficile. La preveggenza c'è, perché realmente le cose che prima erano piccole oggi sono diventate grandi, abbastanza incontrollabili. Quindi in questo senso c'è la preveggenza di un autore che dice: guardate che tra un po' di tempo le cose peggioreranno, ma non è che prima non ci fossero, perché faccio un esempio giusto, l'epoca del fascismo, un imbonitore più di Mussolini, insomma, è difficile, che veramente ha illuso gli italiani. Agli italiani piace essere un po' ingannati? Non lo so se lo fanno perché si affidano a delle persone oppure lo fanno anche non in buona fede, cioè che a volte conviene affidarsi a certe persone per ottenere poi degli scopi personali. Lei sta riscoprendo anche questi testi che sono stati poco rappresentati. Che tipo di viaggio sta facendo, sia professionale, da attore, ma anche personale? Diciamo che in questo momento, che è un momento abbastanza difficile, critico della nostra società e in generale proprio, in cui c'è di fondo una grande confusione, io ho sentito la necessità già da qualche anno di recuperare energicamente le mie radici, la mia tradizione, e non solo per me stesso, ma anche per divulgarle il più possibile, per quanto io possa, perché secondo me è importante radicarsi bene e esprimere all'esterno quelle che sono le tue esperienze. Ecco, queste sono le due ragioni per cui io poi in questo momento prevalentemente faccio il teatro di Edoardo, che poi sono le mie radici, la mia tradizione, il mio mondo. Quanto ha bisogno adesso l'Italia di teatro? Tanto, come per crescere, per ci vuole una forte attenzione alla cultura e all'istruzione, perché sennò la gente si ferma, anzi regredisce. E in questo senso quindi c'è bisogno di un modo di fare spettacolo, che è il teatro, che coinvolge le persone al 100%. Voglio dire, nel momento in cui si va a vedere uno spettacolo dal vivo, si partecipa a questo spettacolo, e questo significa avere la possibilità in qualche modo anche di interloquire e di intervenire. E quindi c'è proprio un insegnamento ad uno scambio di opinioni che è fondamentale per una società. Ci ritroviamo tra poco con 140 caratteri per parlare di cinema. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Il cinema nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Terrazza Martini, Milano. Feste al cinema, dopo la peggiore settimana, il peggior Natale della mia vita, con De Luigi e Capotondi, anche coproduttore, Diego Abatantuono. Sai, il mondo del cinema è fatto di treni che viaggiano, se non entri mai stai a casa tutta la vita, non parti mai. No, è stato che noi il treno l'avevamo fatto partire in qualche modo col mio beneplagio, perché io non incido neanche in quel senso lì, però sapevo, perché facendo parte della Colorado sapevo che sarebbe partito il primo treno, che era la peggior settimana. Mi dispiaceva non esserci, però d'altronde non tutti i film hanno dei ruoli che si adattano. Invece questo secondo, ecco, mi sarebbe dispiaciuto molto di più. Il primo ci stavo dentro, il secondo meno. Fortunatamente nella scrittura è venuto fuori un ruolo che poteva essere adatto, ma soprattutto è venuta fuori la sensazione che avessero piacere e voglia di avere a che fare con me, nel senso che non è stata un'imposizione ma una scelta registica. L'entusiasmo di tutti, se c'è anche Diego sono contento, mi ha sempre fatto piacere, a maggior ragione in questo caso, quindi sono contento di essere, speriamo di stare sul treno se il treno va avanti. È magnifico! Wow! Bellissimo! È così che lo volevo, da fiaba. Ho sempre sognato di vivere in un castello. Sai quando ti prendo una fissa? Sì, sì. E tutto questo grazie anche a te, Giorgione. No. Senza di te, in questo ultimo periodo, non ce l'avrei mai fatta. No. Te lo giuro. Alberto. È bellissimo. Grazie. Pino! Sì! Sì! Prima di portarlo sulla neve, per favore, gli levi i calzini. Sì, sì, sì. E poi mi chiudi la porta, grazie. Sì. Ma che razza è? Ma deve essere meridionale, credo. No, il cane. Ah, quello è un San Bernardo. E parla? No, il cane non ancora, no. Ma no, la cocorita, dico. Ah, quella parla, sì. Ed è anche molto raro, perché in genere le cocorite non parlano. Ah, no? No. Ma che? Oddio. È un ruolo comico, però ha anche un messaggio natalizio. Sono insomma, d'accordo. Lo spirito è quello giusto. Sono d'accordo, devo dire la verità, che mentre lo interpretavo, avevo capito che ci aveva un taglio particolare, mi ero accorto di una novità, perché io ne ho fatti tanti, di cattivi, di cinici, di allegri, di stronzoni, diciamo, di questi ruoli che prevedono poi una finalità umoristica in certi casi. No. Questo ottimista mi ha spiazzato, perché ha un sacco di sfaccettature che non avevo preso in considerazione. E rivedendolo poi al cinema mi ha anche un po', dico, cambiato il carattere, ma mi ha fatto pensare che forse è una strada che si potrebbe anche seguire, quella di questo ottimismo sproporzionato. Tanto non cambia niente, le cose che devono andare storte vanno storte, quelle che vanno dritte devono andare vanno dritte, tu devi cercare di fare del tuo meglio per fare che le cose vadano bene, però poi insomma bisogna pigliarla con allegria. Un film che peraltro esce in tempi difficili e quindi forse è un insegnamento utile. Sì, devo dire che io di film fatti dove che mi dicevano guarda adesso che esce questo film che esce in tempi facili non mi è mai successo, però devo dire che effettivamente questi sono particolarmente difficili. A maggior ragione è un film brillante, una fiaba, insomma in genere nei momenti di grandissima difficoltà, tu vedi proprio nel momento di massima sfiga, uno un gelato al bambino glielo compra, capito? L'ultima spiaggia è sempre quella lì, le castagne, un regalino, un giorno al cinema. Ecco, io credo che nella logica della fiaba, del momento, io credo che 2 ore al cinema a vedere questo film qua in un momento difficile non siano certo negative, possono solo fare allegria. Poi il film non è solo comicità, perché c'è anche un po' di malinconia, si trattano diversi temi. Uno su tutti è la nascita, perché noi scherziamo molto sulla morte nel film, ed è divertente scherzare sulla morte, bisogna farlo, e su tante altre cose, vedi sfighe, ne crea diverse Fabio, però poi quando nasce la bambina c'è un momento proprio bello, secondo me molto emozionante, e che ti fa cambiare in corso d'opera la faccia. Vedo la gente al cinema e quando c'è quel momento lì passa da qualche lacrimuccia di risata a qualche lacrimuccia di emozione. Io spero, anzi sono sicuro, lei non pensi sia stata colpa mia. Cioè, insomma, il dolore a volte ci fa dire cose che non... Anche perché mi sembra evidente che è stato un incidente, no? Sono cose che possono succedere. Non è vero. Prego? Non è vero che sono cose che possono succedere. In che senso, scusi? Sono pochissimi nel mondo quelli che scivolano su un misto di urina e sughetto di tacchino e battono la testa sul pavimento per colpa di uno che ha pisciato nella pentola credendo fosse un water e il giorno dopo muoiono. Quindi non è vero che sono cose che possono succedere. Detto questo, scendiamo? Il pubblico italiano l'anno scorso aveva dimostrato che il gusto in fatto di commedia natalizia è un po' cambiato. Certi film più, così, forse anche più volgari, con una comicità più basica, non sono più quello che il pubblico cerca. Guarda, io nel corso degli anni ho detto, c'è sempre stato il film di Natale. I film di Natale, quando avevo 20 anni io, 25, erano un anno Attila, un anno Bingo Bongo, un anno il film di Troisi, un anno il film di Verdone, un anno il film di... poi è arrivato Pieraccioni, poi sono arrivati Aldo, Giovanni e Giacomo, c'è sempre stato il film di Natale. Poi c'è stato un tipo di film di Natale che era questo denominato cinepanettone, che aveva delle particolari caratteristiche di una comicità un po' più ruspante, forse, se vogliamo, o un po' più legata all'attualità, insomma, e per attualità si intendeva anche forse un po' un tipo di linguaggio che per alcuni può sembrare volgare, per altri può sembrare quello di uso comune, perché se tu vai in giro le parolacce la gente le dice anche. Quindi credo che la volgarità non sia riferita alla parolaccia, ma alla situazione. Dico una cosa che si è già detta, ma volgare è ciò che è volgare, non come lo presenti. Quindi credo che questo tipo di film sia un po' trasversale in questo senso. Però non è che ci sia stato un cambio di rotta da parte del cinema italiano. È Aurelio De Laurentiis che faceva il cinema panettone e a un certo punto ha deciso adesso di cambiare un po' percorso, evidentemente anche sulla base di un risultato che cominciava a venire meno. Amore, ti spiace parlarci tu? Marghe, ma è tua sorella. Lo so, ma mi fa effetto parlare di morte con lei dentro. No, non lasciamo stare, per favore. Squilla. Squilla. Amore. Cos'è? Pronto? Paolo, non urlare. Ginevra? Ginevra? Amore, non senti. Amore. Sono Paolo. Paolo. Paolo, il marito di tua sorella. Senti, Ginevra. Siamo da Alberto, caccia, ti ricordo. Sì, c'è neve, giù meno. Castello è bello, ma non è questo, Ginevra, non è questo. È che purtroppo Alberto è venuto ad accasciarsi e purtroppo non... È venuto a mancare. Non è venuto a mancare. È venuto a mancare? No, ballare, no. Ginevra, Ginevra, Alberto è morto! Alberto è morto! Ma la vuoi finire? Però uscite un mesetto prima di Natale, come mai? È perché c'è novembre, ottobre, se no tutti i film uscirebbero solo a Natale. Noi usciamo a novembre perché ci sembrava, visto che il primo film era andato molto bene, una bella uscita. Le uscite belle sono in genere in questo periodo. Si dice che sia una bella uscita la prima dopo il Natale, quando c'è il primo cadavere natalizio, quindi tu subentri. Poi si è deciso che c'era un pre-Natale a settembre. Poi c'è stata l'uscita del 5 gennaio. Poi c'era quella uscita di Pasqua col cavallo delle feste. Ne ho sentite dire tante. Dei film vanno bene, dei film non vanno bene. Dei film funzionano, degli altri no. Certo, poi io ho provato a uscire con dei film e il giorno che sono usciti il film ha fatto la nevicata del secolo e la gente non riusciva ad andare con le macchine al cinema e lì inevitabilmente perdi un milione a weekend minimo, perché se la gente... No, però d'altronde quella è sfiga. Adesso comunque il rischio si sta diminuendo, visto che non credo che nevicherà più. Potrebbe essere il nostro film uno degli ultimi con la neve vera della storia del cinema mondiale, perché la neve non c'è più. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche con il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.